5B. Ascolta e rispondi. Che cosa hai nella borsa? Ho un documento. Che cosa hai nella borsa? Ho un libro. Che cosa hai nella borsa? Ho un telefono. Che cosa hai nella borsa? Ho una macchina fotografica. Che cosa hai nella borsa? Ho una mappa. Che cosa hai nella borsa? Ho una matita.